saw that and went crazy. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfruttamento. Allora, quando sono le 21:18 minuti, con un'organizzazione degna, un'organizzazione sovietica, comincia Radio Possum. Di che cosa parliamo oggi? Allora, prima di tutto parliamo di un volantinaggio che è stato fatto questo fine settimana davanti al circo di Largo Brenaste, invitando a boicottare il circo con gli animali, e poi parleremo di vivisezione. Varie ed eventuali. Dai, un po' di musica e poi cominciamo. Allora, eccoci qua e come preannunciavamo, vi parleremo intanto di questo piccolo volantinaggio che c'è stato sabato davanti al circo di Largo Brenaste. E è stato distribuito un volantino in cui si invitava appunto a non entrare al circo alle varie famiglie con i bambini che si apprestavano a entrare. E il volantino, appunto, intanto vi leggiamo il volantino. Come ogni inverno, la mancanza di attività, specialmente per bambini, nelle strade e nei quartieri romani, ci propone il triste spettacolo del circo con gli animali. Quelli che vengono spacciati come numeri di grande abilità sono in realtà l'immagine ripulita delle violenze che animali selvatici e nati per essere liberi nel loro habitat naturale devono subire. Gli animali vengono catturati e strappati alle famiglie ancora cuccioli oppure nati già prigionieri, messi in gabbia e costretti a subire abusi, vessazioni e torture fino a quando non obbediscono correttamente ai comandi dell'aguzzino, il cosiddetto domatore. Se veramente apprezziamo la bellezza dei tigri, leoni, elefanti o cavalli, trattiamoli con rispetto e riconosciamo loro la libertà di vivere con i loro simili, nel loro habitat, che non è certo nel circo, nei piccoli camion nei quali vengono trasportati in catene. Se riconosciamo la dignità di un orso, non vorremmo mai vederlo umiliato o torturato per il circo. Per questo boicottiamo il circo con gli animali. Il vero circo è quello fatto da artisti e giocolieri che esibiscono le loro abilità e doti, non da aguzzini che costringono gli animali con la violenza a una parodia del comportamento umano. Boicotta il circo con gli animali. Sì, vabbè, poi così a margine diciamo pure che, non lo so, c'erano forse, ci sono andate 40 persone a vedere lo spettacolo in una tenda che ne ospita 800. quindi anche sì, magari denunciare, forse sei più ferrato tu qui sull'argomento, il fatto che sostanzialmente i circhi italiani vivono grazie ai fondi statali ed europei. I circhi italiani vivono fondamentalmente ai fondi, c'è un fondo del governo per gli artisti che comprende cinema e via dicendo, teatro e via dicendo, e sti soldi, che sono soldi della collettività, se li beccano pure i vari circensi, che è un'attività economicamente in perdita e che purtroppo sopravvive soltanto grazie ai soldi che inconsapevolmente gli diamo noi pagando le tasse, insomma. Vabbè, dai, mettiamo un brano e poi continuiamo a, a parlare con gli argomenti della serata. Sì, ritorniamo in studio parlando adesso di un argomento che abbiamo trattato più volte nel corso appunto delle nostre trasmissioni, cioè la sperimentazione animale o vivisezione, e ne parliamo sia a fronte delle polemiche recenti che ci sono state e che approfondiremo appunto in un secondo momento, e sia perché appunto la direttiva 2010/63/UE che è stata votata appunto l'8 settembre del 2010 al Parlamento Europeo è in corso di recepimento in Italia. Questa direttiva, per citare quali sono i punti salienti, non cambia quasi nulla rispetto alla direttiva precedente, permette delle cose appunto atroci, quali riutilizzare più volte lo stesso animale anche in procedure che provocano intenso dolore, angoscia e sofferenza, praticare l'apertura del torace e altri interventi similari ad animali inermi senza far uso di analgesici, sperimentare su cani e gatti randaggi, articolo 11, tenere in isolamento totale per lunghi periodi animali socievoli come cani, gatti e primati, allegato 8, costringere gli animali a nuoto forzato o altri esercizi fino al sopraggiungere della morte, allegato 8, somministrare scosse elettriche fino a indurre l'impotenza, allegato 8, sperimentare per la ricerca di base sui primati non umani che vengono catturati in un ambiente naturale e venduti ai laboratori in tutto il mondo, a totale discrezione dei ricercatori. Articolo 5, 8 e 55. Sperimentare su animali vivi a scopi didattici, articolo 5. Sperimentare senza anestesia e o non somministrare antidolorifici animali sofferenti se i ricercatori lo ritengono opportuno, articolo 14. E inoltre gli animali possono essere paralizzati con bloccanti neuromuscolari che li lasciano del tutto coscienti di quanto viene loro fatto. Questa direttiva inoltre non presenta l'obbligo di metodi sostitutivi che invece veniva raccomandato nella direttiva precedente. In ogni modo questa direttiva sta appunto per essere recepita in Italia e nel recepimento italiano si cerca di riprendere quelle leggi precedenti al 2010 che possono apportare degli aspetti migliorativi a questa direttiva, quali per esempio vietare la sperimentazione su cani e gatti randaggi. Tutto in discussione ad ora e sembra che appunto non si questa sperimentazione su animali randaggi in Italia non verrà fatta, come forse non verranno più allevati cani, gatti e primati tutto in territorio italiano, però appunto è un braccio di ferro continuo. Questo solo per ricordare a livello legislativo a che punto ci troviamo in Europa e in Italia. Ovviamente le opposizioni sono state tante e vedremo, vi daremo aggiornamenti su recepimento. E se vogliamo aggiungere qualcosa? Sì, più in generale diciamo che il problema della legislazione sulla sperimentazione animale è che, come al solito, i controllori che dovrebbero essere coloro che controllano appunto la sperimentazione sono in qualche modo conniventi con i controllati. A questo proposito, un po' di anni fa Report fece una trasmissione che si chiama Uomini e Topi, che illustrava in maniera abbastanza emblematica, molto chiara e anche in maniera molto triste, purtroppo, il panorama della sperimentazione animale in Italia. E una trasmissione in cui si vedeva chiaramente che tutti gli organi deputati a controllare la sperimentazione, quindi, tanto per fare un esempio, a decidere se effettivamente l'anestesia dell'animale che veniva vivisezionato era necessaria o no, ma adesso questo è soltanto un esempio, il primo esempio che mi viene in mente, in realtà erano assolutamente conniventi con ricercatori, laboratori, industrie farmaceutiche, industrie chimiche, perché poi ricordiamoci che la sperimentazione animale non è, che poi spesso si dice la sperimentazione animale è una cosa che viene fatta per salvare le persone, facendo sempre riferimento alla ricerca medica. In realtà la sperimentazione animale avviene in ogni campo, dall'agroalimentare al settore militare, dove vengono testate armamenti, sostanze al contrario che non servono a salvare le persone ma servono a ammazzarle, e solventi, industrie chimiche e via dicendo. E negli anni, e questo è proprio un giudizio dal punto di vista storico, adesso la sperimentazione animale è servita invece proprio a come dire, trovare il paravento, la scusa per poter avvelenare le persone. Cioè l'amianto, per esempio, è stato sperimentato sugli animali e con sperimentazioni ovviamente manipolate, in cui il risultato che se ne vinceva è che non facesse male alle persone, cioè non faceva male alle cavie di laboratorio e quindi non faceva male neanche alle persone. In realtà poi l'epidemiologia, cioè la ricerca sul campo, sugli individui, l'osservazione statistica dell'incidenza delle malattie e via dicendo, ha dimostrato invece che l'amianto, le polveri dell'amianto sono invece assolutamente letali per le persone. Questo è semplicemente un caso, un esempio per dire che la sperimentazione animale non è una cosa che riguarda soltanto gli animali, nel senso che la sperimentazione animale è il cavallo di Troia e lascia passare il passaporto per immettere sul mercato tutta una serie di sostanze che vanno da medicinali a solventi chimici a sostanze tossiche di tantissimo e di diverso genere. Le cui conseguenze poi le pagano anche gli esseri umani, non le pagano soltanto gli animali da laboratorio, ma le paghiamo anche noi che respiriamo, ingeriamo, beviamo, mangiamo, veniamo in contatto con tutte queste sostanze. Infatti, come dici bene, la sperimentazione animale non è soltanto una questione scientifica, ma è soprattutto un grande business economico, in quanto poi con la sperimentazione animale si può dimostrare qualsiasi cosa scegliendo la specie d'animale adatta per un determinato risultato. Oltre a tutto quanto il business sull'allevamento di animali per i laboratori o tutto quello che gli ruota attorno, quindi aumenta, cioè un grande business permette molteplici pubblicazioni e quindi è un paradigma che non si riesce ad abbattere, perché ci sono molti poteri forti implicati. Dal punto di vista prettamente scientifico viene contestata la sperimentazione animale come valida da molti scienziati e molti ricercatori, ma ovviamente queste voci vengono un po' vengono messe in secondo piano rispetto alle voci di altri esponenti del mondo scientifico, che invece a fronte di connivenze con determinati poteri continuano ad affermare la necessarietà di questo metodo di indagine. E questo molto in sintesi, abbiamo parlato varie volte, ci sarebbe molto da approfondire, ma solo per darvi un quadro della situazione. Adesso vi lasciamo ad un brano prima di affrontare la questione mediatica e la polemica da poco scaturita su tutti i mezzi di comunicazione, su appunto persone a favore e contro la sperimentazione animale, con anche l'implicazione di malati che vengono presi a punto di riferimento per appunto scatenare il putiferio attuale, mediatico. Allora, torniamo in diretta dopo questa lunga chiacchierata sulla vivisezione per parlare ancora di vivisezione, ma da un altro punto di vista. Diciamo, adesso sconfiniamo un po' nel gossip, va? Sì, allora, penso come molti di voi hanno potuto appurare. negli ultime settimane è scaturita una forte polemica su giornali quali Repubblica piuttosto che TG2, piuttosto che su Facebook, anzi in particolare su Facebook, rispetto alle dichiarazioni di una ragazza di nome Caterina, affetta da gravi patologie, che ha sostenuto la sperimentazione animale come necessaria per le proprie cure, e quindi afferma che grazie a sperimentazione animale lei è stata potuta ha potuto aggiungere fino ad ora. A questo sono seguite una serie di insulti da parte di persone varie su Facebook che, e minacce, e da qui si è scaturito appunto il dramma mediatico che ha voluto, che ha fatto di Caterina appunto la vittima di tutte di minacce di morte, e da polemica che poi è giunta alle conclusioni che tutto il mondo che si oppone alla sperimentazione animale, tutto il mondo animalista è un mondo di estremisti, filofascisti o comunque intolleranti, dominati dall'intolleranza, senza alcun rispetto per la vita. Noi appunto volevamo spendere due parole su tutto questo putiferio mediatico che si è creato, in quanto si è molto strumentalizzato il fatto per sostenere la sperimentazione animale, senza considerare che ci sono molte persone anche affette da gravi patologie che si oppongono alla sperimentazione animale, e senza considerare che comunque c'è anche un mondo scientifico che si oppone alla sperimentazione animale. E invece la priorità è stata data, di tutti gli spazi televisivi sono stati dati a, appunto a questo fatto, e a voler creare il mostro nazifascista dell'animalista, l'antispecista, l'antivisezionista, e creare una sorta di pietismo nei confronti di persone malate che non vengono affatto considerate da appunto queste, da animalisti vari. E ovviamente ci troviamo di fronte a una strumentalizzazione vera e propria. Queste dichiarazioni di questa ragazza erano dichiarazioni molto tempo fa che sono state tirate fuori in questo momento del ricevimento della direttiva, e nonché non è stato dato nessuno spazio a chi si oppone. Ci sono varie persone che abbiamo detto che hanno chiesto degli spazi per persone anche malate, quale anche una ricercatrice di nome Susanna Penco, che invece hanno voluto portare posizioni contrarie e che non hanno avuto lo stesso attenzione, lo stesso trattamento di questa ragazza Caterina. Sì, poi ricordiamo che tutta questa campagna non si è mai fatta scrupoli di usare così immagini che fossero strumentali al loro discorso. Ricordiamo quando è iniziata la campagna dei ricercatori a favore della vivisezione, hanno iniziato a mettere foto di bambine ariane bionde bellissime con dei cagnolini bellissimi che li accarezzavano e dicevano che era tutto, diciamo, bisognava salvare i bambini e quindi non si poteva, bisognava sacrificare qualsiasi cosa per ovviamente i solo i bambini bianchi, perché sui bambini neri le multinazionali del farmaco ci testano, quindi in Africa, quindi soltanto la razza ariana può salvarsi. E certo, come al solito. E vabbè, comunque, ecco, noi discorsi seri riceviamo interruzioni. Vabbè, comunque, appunto, non è una novità che facciano uso strumentale di figure così stereotipate di bellezza, anche che rispecchiano certi cliché, per fare propaganda pro vivisezione. Consideriamo anche appunto lo stesso mezzo Facebook, che è stato il centro della polemica, che appunto ha dato il lasciapassare a discussioni anche inutili, che non ci avevano neanche, dignità di esistere. Però Facebook è un mezzo così che permette a chiunque di dire quello che gli pare, anche un mezzo che comunque non porta una grande responsabilità nelle dichiarazioni, e quindi c'è tutto questo putiferio. Poi in realtà del resto del tempo non so se le persone che appunto il popolo di Facebook così contrario alla vivisezione o quant'altro poi in realtà faccia altro rispetto alcune persone facciano altro rispetto ad insulti o cose del genere, ecco. Sì, poi c'è da dire che anche piuttosto così diciamo se strano particolare che sia così sia uscita fuori un'attenzione mediatica su una questione così diciamo gigantesca, però nel momento in cui vuoi dire qualcosa? Sì, no, che a giorni viene dibattuta in Parlamento comunque, quindi che a giorni viene dibattuta in Parlamento. Sì, il tuo microfono si sente pochissimo. Riproviamo, si sente così? Poco. Mi sa che è rotto. Vabbè, usa quest'altro. No, comunque fatto sta che c'è stato questo casino mediatico, però ogni giorno in cui veniva discussa la legge sulla vivisezione, e guarda caso è stato sentito soltanto la voce di chi era a favore della vivisezione, con tutti questi ricercatori che difendono la scienza così sempre neutrale, che lotta per il bene delle persone e per la loro salute. E così, vabbè. Sì, e ricordiamo per esempio il terribile servizio del TG2 che appunto fa un paragone tra gli antivisezionisti e i nazisti più o meno, poi alle strette. Quindi sono nazi animalisti. Come direbbe il nostro amico Giovanardi. E va bene, ci sarebbe anche su questo tant'altro aggiungere, e c'è infatti chi lo aggiunge qui. Sì, ma da questo microfono. Sì, ok. No, io volevo fare soltanto un'osservazione che è abbastanza sul livello intellettivo veramente minimo di questo paese, e cioè sul fatto che siccome si presenta una persona che è malata e si presenta tra l'altro con una... con delle fotografie, che riduce il tema della sperimentazione animale semplicemente a uno slogan con tutti dei peluche intorno, quindi con una connotazione emotiva molto forte, allora automaticamente le persone gli danno ragione. Cioè le persone non tutte per fortuna, però possiamo dire la maggioranza probabilmente, non è che riflette su cosa viene detto, ma riflette esclusivamente su chi lo dice, sulla situazione e sulla situazione in cui versa chi lo dice. Allora, con questo discorso c'è una persona, per esempio, ne parlavamo prima, che è malata fin quasi essere paralizzata da una malattia neurodegenerativa, che però è da sempre contro la vivisezione. Giovanna si chiama, e quindi domani, allora, con questo discorso, se lei andasse su Facebook con la sua foto a dire che è contro la sperimentazione animale, con questo identico ragionamento tutte le persone cambierebbero idea e direbbero: vabbè, no, è vero, sì, allora siamo contro la sperimentazione animale. È un modo di ragionare e di vivere veramente da folli, da schizofrenici. E poi io voglio aggiungere che in realtà Giovanna si è espressa più volte contro la sperimentazione animale, ma non ha avuto tutta l'attenzione che ha avuto questo caso di Caterina, quindi. No, la seconda cosa che poi volevo aggiungere è che pensiamo che se una persona espone pubblicamente un'idea, questo chiaramente al di là di quei 10 dementi che hanno scritto soltanto insulti su Facebook, e tra l'altro quindi hanno fatto anche il gioco, come si è visto, della lobby industriale farmaceutica favorevole alla sperimentazione animale, ma chiunque espone pubblicamente una propria idea, non è che perché è malato allora non può essere contraddetto, allora non può essere, diciamo così, non gli si può rispondere chiaramente a tono, non insultandolo o scrivendo tra l'altro insulti che sono peraltro totalmente inutili, se non addirittura dannosi e controproducenti. Cioè questo status di malattia che viene data a questa ragazza, che sicuramente è malata, però a nostro parere non è che la esime dal dover dimostrare quello che dice o anche dal poter essere criticata. E l'ultima osservazione che personalmente volevo fare è che Per anni i vivisettori hanno sempre accusato il movimento antivivisezionista e il movimento antispecista, diciamo, di fare appello e fare ricorso a immagini forti, a video di torture di animali, insomma cercando di dire voi quello, l'unica cosa che sapete fare è rivolgervi semplicemente alle emotività delle persone e invece non sapete affrontare il tema delle sperimentazioni animali dal punto di vista razionale. Beh, interessante vedere che oggi la stessa lobby di sfruttatori di animali sta evidentemente usando la stessa arma, cioè l'unica cosa che sa fare è mettere su Facebook, sui social network, su questi postacci virtuali popolati da identità insomma così un po' aleatorie, l'unica cosa che sa fare è postare foto di persone malate con cartelli "io sono favorevole alla sperimentazione animale". Benissimo, non c'è nessuna argomentazione razionale o logica dietro questo, ma c'è semplicemente un uso abbastanza strumentale, forse anche inconsapevole, ma sicuramente strumentale, delle malattie delle persone, le quali però a loro volta si prestano, almeno coloro che appaiono su queste foto si prestano a loro volta a essere strumentalizzati, e comunque c'è semplicemente un richiamo emotivo a quella folle di persone che vedono i telegiornali, che leggono un trafiletto sul giornale e che appunto vedono, sentono e leggono i soliti animalisti cattivi. Però non c'è niente di razionale dietro tutto questo, per cui quello che vorremmo dire ai ricercatori è: ma il vostro razionalismo, la vostra scienza, il vostro ragionamento e via dicendo, ma che fine ha fatto? Vi siete ridotti a postare foto di persone malate con cartelli "io sono favorevole alla sperimentazione animale"? Perché è questo quello che traspare oggi. Che poi ricordo che anche un recente convegno che c'è stato a Roma a favore della sperimentazione animale, presidiato dal nostro caro amico Giovanardi, portava appunto come esempio una persona malata che appunto ringraziava la sperimentazione animale di esistere. O piuttosto vogliamo ricordare la campagna "preferisci salvare tua figlia o un topo", campagne totalmente emotive. Va bene, dai, mettiamo una canzone per smorzare un pochino e poi ricominciamo, direi. E allora, questi sono gli Inner Terrestrial con "Heart Must". Allora, torniamo in diretta con quelle che sono le notizie e gli appuntamenti. Cominciamo subito con una notizia dal mondo. Sì, allora leggiamo da Informazione una notizia da supportiamo gli attivisti del caso Blackmail 3. È appena stato lanciato il sito di supporto per gli attivisti imputati e impurati nel caso Blackmail 3, che è www.blackmail3.org. Leggiamo il comunicato. Il mattino del 6 luglio 2012 diverse squadre di polizia perquisiscono case d'ufficio a Londra e ad Amsterdam, arrestando tre persone con l'accusa di cospirazione per commettere ricatto in relazione alla campagna contro il laboratorio di vivisezione Huntington Life Sciences. Le due persone ad Amsterdam sono state arrestate grazie ad un mandato di cattura europeo e dopo una settimana in carcere sono state rilasciate, costrette a restrizioni, private dei loro passaporti. Al momento non possono lasciare l'Olanda e sono in attesa di essere estradate in Gran Bretagna. La terza attivista a Londra è stata rilasciata su cauzione la sera successiva all'arresto ed è anch'essa sottoposta a numerose restrizioni nella sua vita privata e nell'attività politica. Il processo di Debbie, questo è il nome della terza attivista imputata, comincerà il prossimo febbraio 2014 in Inghilterra. Le altre due persone verranno invece processate in seguito, dopo l'estradizione. Il reato di cui questi tre attivisti sono accusati comporta, se condannati, pene sino ai 14 anni di carcere. Questo a causa del loro impegno e della loro determinazione contro l'industria della vivisezione e nello specifico nella lotta per la chiusura di HLS, Huntington Life Sciences, un luogo dove ogni giorno 500 animali delle specie più disparate muore nei modi più atroci. In Inghilterra simili processi con le stesse accuse hanno portato in passato a condanne fino a 9 anni di carcere a chi ha avuto il coraggio di sfidare HLS ed il potere delle multinazionali chimico-farmaceutiche. Per avere maggiori informazioni sulla lotta contro Huntington e la repressione contro il movimento antivivisezionista in Inghilterra rimandiamo al progetto Shock Made History, lavoro prodotto in Italia alcuni mesi fa e consultabile attraverso questo blog www.shockmadehistory.noblogs.org. Debbie, Sven e Natasha necessitano tutta la nostra solidarietà e supporto. Diffondi il sito e le informazioni sul loro caso. Se sei interessato ad organizzare eventi benefit o presentazioni sul caso Blackmail 3 e sulla repressione del movimento in Gran Bretagna o semplicemente per ulteriori informazioni su come poter organizzare il supporto, contattaci all'email del nostro gruppo al genova@autistici.org. È possibile inviare comunicati di solidarietà per gli attivisti che verranno pubblicati sul sito in una pagina dedicata. La mail a cui inviarli è info@blackmail3.org. Okay. Passiamo alla prossima notizia. Adesso una notizia dal mondo, anzi in realtà una notizia dall'Italia, addirittura da Roma. Su directaction.info, un sito che riporta azioni dirette, quindi liberazioni e danneggiamenti in tutto il mondo, leggiamo da un reportage anonimo. 30 dicembre, una rivendicazione 30 dicembre, un piccolo sabotaggio al consumismo natalizio e alla macchina dello sfruttamento degli animali. Sigillate le serrature di diverse pescherie, macellerie e pellicerie a Roma. Lascia paura e pigrizia a casa, combatti specismo e sfruttamento. E magari adesso mettiamo anche una piccola canzone e poi andiamo con... ma il nostro amico Motion non ce l'ha pronta, quindi ce l'ho. La lieterò io, vi canterò, che ne so, suona solo per me violino zigano, se volete. qualche canzone di Nilla Pizzi possiamo mettere. Dai, canta. Ma vedo che la canzone è pronta, quindi sarà per la prossima volta. Representation of patriarchal values. Meat eating is the reinscription of male power at every meal. The patriarchal gaze sees not the fragmented flesh of dead animals, but appetizing food. Vegetarian activities counter patriarchal consumption and challenge the consumption of death. Feminist vegetarian activity declares that an alternative worldview exists, one which celebrates life rather than consumption. one which does not rely on resurrected animals, but empowered people. Allora, torniamo in diretta con le prossime notizie. Non so se vi siete messi d'accordo su qual è l'ordine con cui dobbiamo leggere queste cacchio di notizie. Siamo un po' nel pallone. Vai. Vabbè, ok. Io intanto vi leggo che in Inghilterra, mentre il resto della redazione discute, in Inghilterra c'è stata un'azione contro una serie della Vinci. Ricordiamo, la Vinci è l'azienda che è connivente con la maggior parte delle grandi opere, tra le più schifose che si fanno in Italia e nel mondo, tra cui anche la TAV, la ZAD, il MAT in Catalogna. Vabbè, non vi vengo a leggere tutto quanto il comunicato perché è molto lungo e analizza anche molto bene il ruolo della Vinci nei suoi macelli e nelle sue schifezze che fa in giro per il mondo. Vi segnaliamo soltanto che appunto c'è stato un attacco contro la sede Vinci che collabora con Oppressori e Nocività Biotech. Trovate il comunicato per intero sul sito www.informa-azione.info. Poi, prossima notizia. Prossima notizia, che in realtà è un appuntamento, è il 26 gennaio 2014 a Villa Vegan a Milano, pomeriggio hardcore benefit prigionieri Notav. Vi leggiamo il programma: dalle ore 16 suoneranno i Filthy Charity, che suonano Crust da Marsiglia, i Nemesis, Straight Edge Elite Bologna, Cospirazione, Hardcore Conflict, Warpath, Milano Crust e Feed Me More Milano Fastcore. Ingresso 4 euro, tutti ricavato dell'iniziativa andrà in benefit per Mattia, Chiara, Nicolò e Claudio. Tutti liberi, tutte libere. Ricordiamo il 26 gennaio a Villa Vegan. E poi l'altro appuntamento ce lo legge una nostra ospite, che sperava di non dire niente ai microfoni, ma siamo riusciti infine a incastrarla, e quindi adesso sono affari suoi. Quindi una nuova voce per rilanciare quest'ultimo appuntamento da informazione. Lotta e resistenza alla nocività, secondo incontro su vaccini e salute. Ogni giorno la scienza ci promette una vita più sana e sicura del giorno precedente e ci ritroviamo invece in un domani più controllato, più inquinato e meno libero di ieri. Noi vogliamo il futuro, ci riprendiamo il presente contro ogni gabbia. È domenica 2 febbraio 2014. Alle ore 16:30 abbiamo un video introduttivo, poi un dibattito aperto di controinformazioni su cosa sono, cosa comportano e perché evitarli, ed esperienze di genitori che hanno scelto di non vaccinare i figli. Alle ore 20 invece la cena a buffet senza sfruttamenti. Benefit per Chiara, Mattia, Niccolò e Claudio, tutti liberi. Ricordiamo domenica 2 febbraio 2014. Va bene, allora questo è il primo di un tuo grande futuro da redattrice di Radio Possum. E poi non lo so, abbiamo altri appuntamenti? Vai. No, non ce l'hai, va bene, perfetto. Quindi sei stati un'ora a bisticciare per leggere un appuntamento solo, quindi non lo so. Va bene, vi comunichiamo anche che il nostro compagno Alberto Funaro, compagno della radio, ricordiamo rinchiuso per le condanne contro la rivolta del G8 di Genova 2001, Alberto Funaro adesso sta qui a Rebibbia, quindi l'indirizzo per chi vuole scrivere, scrivetegli numerosi e numerose, è Alberto Funaro, CO, casa di reclusione di Rebibbia, via Bartolo Longo 72, 00156, Roma. E credo che sia tutto. I nostri contatti? Vabbè, dico tutto io? No. Vai. Allora, per chi volesse scriverci una mail, la Gazza la... una mail? Neanche mia nonna dice mail, lo psicologo. dai, basta, la dì, che li dice qualcun altro. La Gazza Ladra, @inventati.org. Dopo che hai detto mail. Invece, per chi volesse riascoltare le nostre puntate o comunque tenersi sempre aggiornato, il nostro blog radiopossum.noblogs.org. Com'era la mail? La mail. Vabbè, abbiamo finito. Ci rivediamo, ci risentiamo lunedì prossimo, ricordiamo nuovo orario dalle 21 alle 22. Lunedì prossimo, 21 alle 22? Sì, come oggi. Nuovo orario, nel senso che la Trano ha un altro orario, eccetera, eccetera. E un saluto a tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà personale. Siano essi umani o non. Ciao! Ciao!